Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Seth aveva dato scarsa importanza all'episodio del vestito bianco, ma poi arrivò Paul D e si ricordò dell'interpretazione fornita da Denver. I progetti. Il mattino seguente, dopo quella prima notte passata con Paul D, Seth sorrise, già solo a pensare al significato di quella parola. L'unico progetto che avesse mai tentato, quello di fuggire da Sweet Home, era andato completamente storto. E quindi non aveva più osato farne altri. Eppure, il mattino in cui si era svegliata vicino a Paul D, la parola che Denver aveva usato qualche anno prima le attraversò la mente. Pensò a ciò che Denver aveva visto inginocchiato accanto a lei e pensò anche alla tentazione di ritrovare la fiducia e la memoria che l'aveva afferrata quando stava in piedi davanti alla cucina, tra le braccia di Paul D. Era giusto? Era giusto insistere a voler provare dei sentimenti, insistere a voler contare davvero su qualcosa. Distesa accanto a lui, mentre lo ascoltava respirare, non riusciva a pensare chiaramente. Così si era alzata dal letto, adagio, molto adagio. Inginocchiata nel soggiorno, dove era solita andare a parlare e a pensare, a un tratto le parve chiaro perché Baby Sachs aveva una così grande fame di colori. Non ce n'erano affatto, se si faceva eccezione per i due riquadri arancione su una trapunta, i quali risultavano ancora più stridenti, dato il contrasto. Le pareti della stanza erano color ardesia, il pavimento colore del terriccio, la toletta di legno del suo colore naturale, le tende bianche e il pezzo forte, la trapunta sul lettino di ferro, era fatta con degli scarti di serge blu e di lana nera, marrone e grigia, l'intera gamma di colori scuri e smunti, consentiti dalla parsimonia e dalla semplicità. In quell'arco di colori così discreti, le due toppe arancione avevano un che di violento, come la vita al suo stato originario. Quando Paul D era arrivato nell'Ohio, poi a Cincinnati, poi a casa della madre di Hal Suggs, pensava ormai di aver visto e provato tutto nella vita. Anche se ora, mentre rimetteva in sesto il telaio della finestra che aveva prima sfasciato, non si capacitava ancora della gioia che aveva provato nel trovare la moglie di Hal viva, scalza e a capo scoperto, nel vederla arrivare da dietro la casa, le scarpe e le calze in mano. La parte della sua mente che era chiusa si era aperta come una serratura ben oliata. «Pensavo di fermarmi da queste parti a cercare lavoro. Tu che ne dici?» «Non ce n'è molto. Il fiume più che altro e i maiali.» «Beh, io sull'acqua non ho mai lavorato, però posso tirare su qualsiasi cosa pesante quanto me, pure i maiali. I bianchi qui sono meglio che nel Kentucky. Però devi darti un po' da fare.» «Il fatto non è se mi do da fare o no, ma dove. A te va bene se sto a darmi da fare qui? A me va più che bene. Tua figlia, Denver, non mi sembra della stessa idea.» «Perché dici questo?» «Ha l'aria di una che aspetta qualcosa, e quel qualcosa non sono io.» «Non so che cos'è.» «Beh, qualunque cosa sia, secondo lei io mi sono messo di mezzo.» «Non preoccuparti, è una bambina stregata, fin dall'inizio.» «Dici davvero?» «Oh sì, non le può capitare niente di male. Vedi un po' tu, tutti quelli che conoscevo ormai sono spariti, belli morti e sepolti. Lei no, non la mia Denver. Anche quando me la portavo dentro, quando ormai era chiaro che non ce la potevo fare, il che voleva dire che non ce la poteva fare nemmeno lei, ha fatto spuntare dalla collina una ragazza bianca, l'ultima cosa da cui uno poteva aspettarsi aiuto. E quando il maestro ci ha trovati ed è venuto qui ad arrestare tutti, con lo sceriffo e con il fucile il maestro ti ha trovato. Ci ha messo un po', ma poi ci è riuscito. E non t'ha riportato indietro. Oh no, non potevo tornare laggiù. Non mi importa chi mi ha trovato e che cosa ha trovato. Una vita qualsiasi, ma non quella lì. Così sono finita in prigione. Denver era appena una bambina ed è venuta in prigione con me. Là dentro i topi mordevano tutto, ma non lei. Paul D. si voltò dall'altra parte. Ne voleva sapere di più, ma parlare della prigione lo aveva riportato ad Alfred, in Georgia. «Mi servono dei chiodi. Non c'è nessuno qui attorno che me li può prestare? O devo andare in città?» «Forse è meglio se ci vai lo stesso in città. Ti serviranno altre cose, no?» Una notte sola e già parlavano come fossero una coppia. Avevano sorvolato sull'amore e su tutte le altre promesse ed erano passati direttamente a questo. «A te va bene se sto a darmi da fare qui?» Per Seth il futuro era solo il problema di riuscire a tenere a bada il passato. La vita migliore che a suo avviso Denver e lei vivevano semplicemente non era quell'altra vita. Il fatto che Paul D. fosse spuntato fuori da quell'altra vita per finire nel suo letto era ancora meglio, e l'idea vaga di un futuro da trascorrere assieme a lui o, per quel che importava, anche senza di lui, cominciava a carezzarle la mente. Quanto a Denver, il compito di Seth era stato quello di tenerla lontana dal passato che era ancora lì ad aspettarla. E questa era la sola cosa che contava. Gradevolmente turbata, Seth evitava sia il soggiorno sia le occhiate di traverso che le lanciava Denver. Come già si aspettava, poiché così va la vita, non servì a niente. Denver costituiva un disturbo notevole e dopo 3 giorni chiese a bruciapelo a Paul D. per quanto tempo ancora si sarebbe fermato lì a oziare. La frase lo offese a tal punto che nel posare la tazza del caffè Paul D. mancò il tavolo e la tazza cadde a terra, rotolando sulle assi in pendenza del pavimento fino alla porta d'ingresso. «A oziare!» Paul D. non guardò neppure il disastro che aveva combinato. «Denver! Che diavolo ti prende?» Seth osservò sua figlia, più imbarazzata che arrabbiata. Paul D. si grattò i peli sul mento. «Forse è meglio se sparisco di qua!» «No!» Seth fu sorpresa dal vigore della sua voce. «Lui lo sa di che cosa ha bisogno», disse Denver. «Beh, tu invece no», le disse Seth. «E forse non sai nemmeno di che cosa hai bisogno tu. Non voglio sentire altro. Ho solo chiesto se...» «Zitta! Sparisci tu invece. Vatti a sedere da qualche altra parte». Denver prese il piatto e si allontanò dalla tavola, non senza prima aver aggiunto un pezzo di pollo e dell'altro pane al mucchietto di cibo che si stava portando via. Paul D. si chinò per asciugare con il fazzoletto blu il caffè rovesciato prima. «Ci penso io». Seth balzò in piedi e andò alla stufa. Dietro c'erano molti panni stesi, bagnati in modo diverso. Seth asciugò in silenzio il pavimento e recuperò la tazza. Poi ne riempì un'altra per Paul D. e gliela mise davanti con fare premuroso. Paul D. ne carezzò il bordo, ma non disse niente. Come se anche solo un «grazie» fosse un impegno che non si sentiva in dovere di rispettare, e il caffè stesso un dono che non poteva accettare. Seth si risedette e il silenzio continuò. Infine si rese conto che doveva essere lei la prima a parlare. «Non l'ho educata io a quel modo». Paul D. carezzò il bordo della tazza. «E sono sorpresa dal suo comportamento quanto tu puoi esserne offeso». Paul D. guardò Seth. «La sua domanda ha qualche precedente». «Qualche precedente? Che cosa vuoi dire?» «Voglio dire, l'ha mai dovuto o voluto chiedere a qualcun altro prima di me?» Seth serrò i pugni e se li portò ai fianchi. «Non è che tu sia migliore di lei. Avanti, Seth, smettila. Certo, certo, la smetto. Lo sai che cosa volevo dire, no? Lo so e non mi va. Oh, Cristo!» disse lui piano. «Chi?» Seth stava nuovamente alzando la voce. «Cristo! Ho detto Cristo! Mi ero solo seduto a tavola per la cena e vengo insultato due volte. La prima perché sono qui e la seconda perché ho chiesto come mai ero stato insultato. Non t'ha insultato, no? Bene, aveva tutta l'aria. Avanti, su, mi scuso per lei, sono davvero... No. No, non puoi farlo. Non puoi scusarti per nessuno. È lei che deve farlo. Allora le dirò di farlo», disse Seth sospirando. «Io voglio sapere solo questo. La domanda che mi ha fatto lei passa per la mente anche a te. Oh no, no, Paul Dio, no! Allora quello che hai in mente tu è una cosa e quello che hai in mente lei è un'altra? Sempre che uno possa dire che lei ce l'ha una mente. Scusa tanto, ma non sopporto nemmeno una parola contro di lei. Ci penso io a punirla. Tu lasciala stare». Rischioso, pensò Paul D., molto rischioso. Per una ex schiava amare a quel modo era pericoloso, soprattutto se l'oggetto dell'amore erano i suoi figli. La cosa migliore da farsi, lo sapeva, era amare un pochino, amare tutto, però solo un pochino. Così, quando gli spezzavano la schiena o lo ficcavano in un sacco di juta, beh, forse restava un po' d'amore per chi veniva dopo. «Perché?» le chiese. «Perché pensi di dover prendere le sue difese? Di scusarti per lei? È grande, no? A me non importa quello che è. Grande non significa niente per una mamma. Un figlio è sempre un figlio. È chiaro, crescono, invecchiano. Grande, però, che cosa vuol dire? Nel mio cuore non vuol dire niente. Vuol dire che se si comporta male deve prendersi le sue responsabilità. Non puoi proteggerla sempre. Che succederà quando muori? Niente! La proteggerò quando sarò viva. E la proteggerò anche quando non ci sarò più. Oh, beh, allora, non ho altro da dire. Ci rinuncio. Le cose stanno così, Paul D. Non so spiegartelo in un altro modo, ma stanno proprio così. Se devo scegliere... Beh, non ci sto neanche a pensare su un attimo. È proprio lì la questione. È tutta lì. Non ti sto chiedendo di scegliere. Nessuno vuole farlo. Io pensavo... Insomma, pensavo che potevi... Che ci poteva essere un po' di posto anche per me. Lei ha bisogno di me. No, non puoi cavartela così. Glielo devi dire. Glielo devi dire che non si tratta di scegliere qualcuno al posto suo, ma di fare posto a qualcuno assieme a lei. Glielo devi dire. E se glielo dici e ci credi sul serio, allora devi anche sapere che non mi puoi imbavagliare. Sta tranquilla che non le farò del male e che le darò quello che le serve se posso, ma nessuno mi può dire di chiudere la bocca se si comporta male. Se mi vuoi qui, non mettermi nessun bavaglio. Forse è meglio lasciare le cose come stanno, disse lei. E come stanno? Tiriamo avanti. E dentro? Dentro non ci vado. Seth, se ci sono io qui con te, con Denver, tu puoi andare dove vuoi. Puoi anche saltare se vuoi, perché ci sono io che ti prendo. Ti prendo prima che cadi. Va dentro finché vuoi. Ci sono io che ti tengo per le caviglie e ti faccio tornare fuori. Non preoccuparti. Non te lo dico perché ho bisogno di un posto dove stare, è l'ultima cosa che mi serve. Te l'ho detto, sono un giramondo. Però sono 7 anni che cammino per arrivare qui, che giro attorno a questo posto, di su, di giù, a est, a ovest. Sono stato in certi posti che non avevano neanche un nome e non mi sono fermato mai da nessuna parte per tanto tempo. Ma quando sono arrivato qui e mi sono seduto sulla veranda, là fuori, ad aspettarti, beh, ho capito che non era il posto quello che cercavo, ma eri tu. Possiamo costruirci una vita insieme, ragazza mia. Non lo so. Lascia fare a me. Vediamo come va. Niente promesse, se non vuoi. Vediamo solo come va. D'accordo? D'accordo. Sei disposta a lasciar fare a me? Beh, in parte. In parte? Paul D sorrise. D'accordo. Eccoti qua una parte. Giù in città c'è il circo. Giovedì, domani. per la gente di colore. Ho $2 e così tu, io e Denver ce li spenderemo tutti fino all'ultimo centesimo. Che ne dici? No, fu ciò che disse. O almeno ciò che aveva intenzione di dire. Che cosa avrebbe detto il padrone se si fosse presa un giorno di libertà? Però, persino mentre lo diceva, pensava quale gioia provavano i suoi occhi nel guardare il volto di Paul D. Quel giovedì i grilli stridevano e il cielo, screziato d'azzurro, era d'un bianco torrido già alle 11 di mattina. Seth non aveva un abbigliamento adeguato per quel caldo, però, essendo il suo primo impegno mondano da 18 anni a quella parte, si era sentita in dovere di indossare il suo unico abito buono, pesante com'era, e un cappello. Sul cappello non aveva avuto dubbi. Non voleva incontrare Lady Jones oppure Ella, con il capo coperto da un fazzoletto come quando andava a lavorare. Il vestito smesso, ma di lana buona, un modello ormai superato, era un regalo di Natale per Baby Sachs da parte di Miss Bodwin, la donna bianca che le era così affezionata. Denver e Paul D se la cavavano meglio col caldo, poiché a nessuno dei due era sembrato che l'occasione meritasse un abbigliamento particolare. Denver aveva il cappellino che le sbatteva continuamente contro le scapole. Paul D, senza giacca, portava il gilet aperto e le maniche della camicia arrotolate fin sopra il gomito. I tre non si tenevano per mano, le loro ombre però sì. Seth si voltò a sinistra e vide che scivolavano insieme sopra la polvere, per mano. Forse aveva ragione lui, farsi una vita. Guardando le ombre che si tenevano la mano, si sentiva in imbarazzo per essersi vestita come per andare in chiesa. Chi stava davanti o dietro a loro avrebbe pensato che si dava delle arie, che voleva far sapere di sentirsi diversa perché abitava in una casa a due piani, che era più forte di loro perché era riuscita a sopravvivere dopo aver fatto delle cose che, secondo loro, non si dovevano fare e alle quali non avrebbe dovuto sopravvivere. Era contenta che Denver avesse resistito alle sue insistenze di vestirsi bene, ma perlomeno si era rifatta le trecce. Denver non faceva nulla per rendere il tragitto piacevole. Aveva consentito ad andare con loro, di malavoglia. Però il suo atteggiamento era del tipo «Va bene, fate pure. Cercate di farmi divertire se ci riuscite». A essere contento era Paul D. Diceva «Salve!» a tutti quelli che vedeva nel raggio di 10 metri. Se la rideva del clima e dell'effetto che sortiva su di lui. Rispondeva al gracchiare dei corvi ed era il primo a sentire l'odore delle rose marcescenti. Per tutto quel tempo non importava quel che facevano, sia che Denver si asciugasse il sudore della fronte o si chinasse a riallacciarsi le scarpe, sia che Paul D desse un calcio a un sasso o tendesse la mano per carezzare la faccia di un bambino che sporgeva dalla spalla di sua madre. Per tutto quel tempo, le tre ombre che dai loro piedi si allungavano verso sinistra si tennero per mano. Nessuno le notò, tranne Seth, la quale smise di osservarle solo dopo aver convenuto che si trattava di un buon segno. Farsi una vita, chissà. Lo steccato del deposito di legname pullulava sopra e sotto di vecchie rose sul punto di marcire. Il segantino che le aveva piantate 12 anni prima per dare al suo posto di lavoro un'atmosfera cordiale, qualche cosa che servisse a espiare il fatto che si guadagnava da vivere tagliando gli alberi, era rimasto sorpreso dal loro proliferare, dalla rapidità con cui si erano arrampicate sopra i pali dello steccato che separavano il deposito di legname dai prati lì accanto, dove andavano a dormire i senza tetto, dove scorazzavano i bambini e dove, una volta l'anno, piantavano le tende quelli del circo. Le rose più si avvicinavano alla fine, più profumavano e tutti coloro che andavano al circo lo associavano al fetore delle rose marcite. Quel profumo li stordiva un po' e li rendeva alquanto assetati, però non smorzava l'impazienza della gente di colore che sfilava per la strada. Alcuni camminavano lungo i margini erbosi, scansavano i carri che avanzavano cigolando tra la polvere. Tutti, come anche Paul D, erano di buon umore e il profumo delle rose che sfiorivano, cosa che Paul D faceva notare a tutti, non riusciva a scoraggiarli. Mentre premevano per portarsi al cordone d'ingresso, i loro volti erano accesi come tante lampade, trafelati per l'ansia di vedere i bianchi lasciarsi andare alle più svariate sfrenatezze: prestigiatori, pagliacci, esseri senza testa o con due teste, alti 4 metri o 40 centimetri, pesanti una tonnellata, interamente coperti di tatuaggi. Erano ansiosi di vederli mangiare il vetro, inghiottire il fuoco, sputare fuori dei nastrini, annodarsi tutti, formare delle piramidi, giocare con i serpenti e pestare a vicenda. Tutto questo, naturalmente, accadeva solo nella pubblicità, letta da quelli che erano capaci di leggere e ascoltata da quelli che non erano capaci. E il fatto che non ci fosse niente di vero non diminuiva la loro voglia di una virgola. L'imbonitore li esortava, coprendo di ingiurie sia loro sia i loro figli: «I negretti entrano gratis!» Ma il gilet sporco di cibo e i pantaloni bucati lo rendevano piuttosto inoffensivo. A ogni modo, il prezzo che dovevano pagare per vedere uno spettacolo che forse non avrebbero potuto vedere mai più era pur sempre irrisorio. 2 penny e un insulto. Erano ben spesi, se questo voleva dire potersi gustare lo spettacolo dei bianchi che davano spettacolo di sé. Così, benché il circo fosse men che mediocre, motivo per cui avevano accettato di fare un giovedì per la gente di colore, fornì ai 400 neri convenuti emozioni su emozioni. La donna cannone sputò loro addosso, ma la sua grande mole smorzò la gittata dello sputo e si divertirono non poco a vedere quei suoi occhietti cattivi resi improvvisamente impotenti. La danzatrice delle mille una notte ridusse la sua esibizione a 3 minuti soltanto invece dei soliti 15, guadagnandosi la gratitudine dei bambini che aspettavano impazienti Abu, l'incantatore di serpenti, il cui numero veniva subito dopo. Denver si comprò il marrupio, la liquirizia, la menta piperita e una limonata a un tavolo presidiato da una ragazzina bianca con scarpe alte da signora. Rasserenata dai dolciumi, circondata da persone che non la consideravano l'attrazione principale e che, anzi, di tanto in tanto la salutavano dicendole «Ehi, Denver!», provò una sensazione di piacere almeno quanto bastava per prendere in considerazione la possibilità che Paul D non fosse poi così cattivo. Anzi, c'era qualcosa in lui, quando stavano insieme tutti e tre a guardare il nanetto ballare, che rendeva gli sguardi degli altri neri cortesi, gentili, qualcosa che a Denver non sembrava di aver mai letto sul loro volto. Parecchi salutavano perfino con un cenno del capo e un sorriso sua madre, poiché nessuno, a quanto pareva, non poteva non condividere la gioia di Paul D. Come quando il gigante aveva ballato con il nanetto e Paul D si era sbellicato battendo le mani sulle ginocchia, o come quando l'uomo delle due teste aveva parlato con se stesso. Paul D comprò a Denver tutto quello che chiedeva e anche molte cose che non chiedeva. Persuase Seth a entrare in alcune tende in cui era riluttante a entrare. Le infilò a forza tra le labbra dei dolci che da prima non voleva mangiare. Quando il selvaggio dell'Africa nera percosse le sbarre in cui era rinchiuso dicendo «Wow, wow!», Paul D fece sapere a tutti che in realtà si trattava di un tipo che lui aveva conosciuto a Roanoke. Paul D fece qualche conoscenza e si informò su quale tipo di lavoro avrebbe potuto trovare. Seth ricambiò i sorrisi della gente. Denver non si teneva più dalla gioia e al ritorno, anche se ora li precedevano, le ombre di 3 persone si tenevano ancora per mano. Play.